loro che sanno aspettare, a loro la pace, a loro il divenire, beati coloro che lasciano acceso il cuore anche nella bufera, anche nel dolore. Beati coloro che non si abbandonano all'indifferenza e vispi come leoni combattono l'arroganza. Non lasciatevi intimorire, avrete di cui gioire il giorno della luce. È prossimo a venire, beate le vostre case che accolgono il diverso, perché chi abbraccia il mondo non sarà mai perso. Beati i vostri tetti che liberano la voce, perché chi abbraccia sguardi è un figlio della luce. Beati coloro che nel vento lacrimano in silenzio e nel proprio quotidiano cercano pace e tendono la mano. Beato chi apre la bocca per seminare fiori ed ogni stella fa brillare nel suo dentro, nel suo fuori. Beati quando agli insulti risponderete con un sorriso, perché chi vi umilia solo invidia del vostro paradiso. Beato sia il destino di chi spolvera il cammino e agli umili e gli emarginati ridà senso, glorifica il divino. Beati coloro che spengono il televisore quando l'elettricità è contaminata da non vedere. Beati coloro che fede non danno mai a vedere, perché chi crede davvero non ha bisogno di apparire. Beati i puri di animo, che vostro è il vostro dare. Beato chi sa donare se stesso con pudore. Beato ogni animale che dimostra all'uomo eleganza, che ogni creatura è un cosmo, una miniera, una scienza. È vostro il paradiso, è vostro il mondo intero. La vita vi è sorella, fratello, vostro è il cielo. Beati coloro che hanno capito questo mio canto, io resterò con loro in eterno al vostro fianco. Beati coloro che nel vento lacrimano in silenzio e nel proprio quotidiano cercano pace e tendono la mano. Beato chi apre la bocca per seminare fiori ed ogni stella fa brillare nel suo dentro, nel suo fuori. Beati quando agli insulti risponderete con un sorriso, perché chi vi umilia ha solo invidia del vostro paradiso. Beato sia il destino di chi spolvera il cammino e agli umili, agli emarginati, ridà senso, glorifica il divino.